È lunedì 7 ottobre, i titoli, il Sole 24 Ore apre su fisco, 10 mosse per la crescita, questo è il titolo dell'edizione del lunedì, mentre gli altri quotidiani aprono tutti più o meno sulla vicenda all'interno del Popolo della Libertà, dopo insomma i giorni un po' di tensione, ora ecco la disfida all'interno del Popolo della Libertà. Corriere della Sera, Berlusconi, duello Letta Alfano. Repubblica, Letta, il ventennio è finito. La Stampa, Letta Alfano, prima sfida. Il Giornale, Letta vuole comandare il PDL. Il Messaggero, caos PDL, Berlusconi frena i falchi. L'Unità, Letta volta pagina, i due PDL no. Il Secolo XIX, Letta al PDL, è finito il ventennio. Ecco, è questa frase che ha fatto discutere molto, ha riacceso un po' il dibattito politico, soprattutto all'interno del Popolo della Libertà. Ma lo vedremo con calma, tanto, guardate, io quando ho preso oggi in mano i giornali volevo veramente... mi è venuto un moto, un afflato di tristezza e mestizia che non ci credevo, ma vedremo più avanti, dopo la pubblicità. Perché tranquilli, almeno 10 pagine le prime 10 pagine dei giornali sono dedicate sempre alla politica e questo dibattito, soprattutto all'interno del Popolo della Libertà, riguardo a che succederà ora. Poi ci sono anche cose, a mio modo di vedere, sui giornali interessanti. Una è questa, il dibattito che è scaturito dal suicidio del regista Carlo Lizzani, che un po' come ha fatto Monicelli, un po' come hanno fatto anche altre persone che sono finite sui giornali perché sono famose, ma come fanno tante persone, si è tolto la vita a 91 anni, lasciando la frase alla famiglia: stacco la spina. Perché questa fine tragica ha rilanciato un dibattito? Beh, ha rilanciato un dibattito dopo che il figlio di Carlo Lizzani, Francesco, ha detto a caldo: è assurdo che nel nostro paese sia negata la possibilità di decidere se morire con dignità. Insomma, ha rilanciato il dibattito sull'eutanasia. Oggi i giornali sono pieni di cose interessanti su questo tema. Il figlio di Lizzani, l'idea della fine. Voleva morire con mia madre. Questo è il titolo di pagina 23 del Corriere della Sera, con l'articolo di Esther Palma, che va a sentire il figlio. Mio padre e mia madre erano sposati da oltre 60 anni, avrebbero voluto morire insieme, lo dicevano sempre, come Romeo e Giulietta. E a caldo, subito dopo, è vero, ho parlato di eutanasia, della possibilità di scegliere come andarsene, perché con mio padre ne avevamo parlato molte volte, lui sosteneva anche finanziariamente iniziative come quelle dell'associazione Coscioni per la libertà di ricerca scientifica. Se magari sai di poterlo fare come e quando vuoi, in tranquillità e dignità, non lo fai e aspetti un po'. E forse ci puoi anche ripensare. Ecco, a mio padre avrei potuto dire: dai papà, prendiamoci ancora un caffè, parliamone insieme. Lui era lucidissimo fino alla fine, gli leggevo i compiti di filosofia dei miei allievi, lui correggeva errori linguistici che nemmeno io avevo notato, magari poi aveva qualche vuoto di memoria sugli avvenimenti recenti, ma aveva progetti, idee, cose che avrebbe voluto fare. Non era malato, niente in particolare, se non gli anni che pesavano, usciva poco, quasi non si reggeva più in piedi, era stato ricoverato in ospedale un paio di volte, e l'impotenza fisica, sentire il suo corpo senza più forze contro un cervello che funzionava ancora benissimo, lo esasperava. Era come me indignato, racconta ancora il figlio di Lizzani, indignato che in casi come quelli di Pier Giorgio Welbio e Luana Englaro i familiari fossero stati definiti assassini, con una violenza che io definirei pornografica, oscena, se si pensa che tali accuse sono rivolte a persone che hanno sofferto moltissimo per anni. Certo, mio padre avrebbe potuto andare all'estero, in uno dei paesi come l'Olanda in cui queste pratiche sono legali, ma credo lo spaventasse la difficoltà pratica di muoversi. E, tra l'altro, il dibattito, il Corriere della Sera fa invece un articolo di Domenico De Masi, sociologo, che racconta il tempo che scorre, il significato dell'esistenza, anche introiettato nella storia. Si può vivere bene a 90 anni, il segreto è ritrovarsi in armonia con la memoria, è il titolo dell'articolo di De Masi. Ma questo dibattito è il titolo anche, dibattito sull'eutanasia, che sul Giornale trova spazio a pagina 18 con due articoli, quello del cattolico Maurizio Caverzan, che sostiene l'uomo non può disporre della vita, il suicidio è un atto rispettabile ma egocentrico. Credo che il suicidio sia ultimamente un atto di egocentrismo, scrive Caverzan sul giornale. Forse anche di superbia, un gesto a suo modo rispettabile, come un gesto che bestemmia il mistero della vita che ci viene data e che si rinnova in ogni istante senza che lo decidiamo. A fianco però c'è il commento di Vittorio Feltri, il laico. Poter scegliere, scrive Feltri, è segno di libertà. Quelli che criticano i suicidi perché in contrasto con la loro morale, a mio modesto giudizio, sono privi di morale, considerandola proprio al di sopra di ogni altra, scrive Feltri. Chi l'ha detto? Chi stabilisce quale sia l'etica che meriti il primato? I cristiani sono fermamente convinti che la vita sia un dono di Dio e che soltanto Lui possa riprendersela. Costoro non hanno dubbi e non desideriamo fargliene venire. Sono credenti, è assolutamente legittimo che abbiano una fede incrollabile. Ciò che invece è incomprensibile è la loro pretesa di imporre a tutti, anche agli atei e agli agnostici, i principi ai quali si ispirano, tra cui l'idea che nessuno possa scegliere di tirare le cuoia volontariamente quando e come vuole e per i motivi che ritiene validi. Questo il punto di vista di Vittorio Feltri, e su questo tema torna a parlare una persona che ne ha fatto anche una battaglia della sua vita, l'oncologo Umberto Veronesi. Viene intervistato da Flavia Amabile sulla Stampa, pagina 15. Il caso Lizzani, la vita è un diritto e non un dovere, dice Veronesi. Purtroppo in Italia e in molte parti d'Europa il diritto di morire con dignità è una conquista ancora da fare. Ci sono mille modi di interrompere la propria vita più serenamente. È necessario avviare un dibattito serio su questo. Poi racconta Veronesi, esiste l'autodeterminazione. In Italia è vero, i cattolici sostengono che la vita sia un dono e di conseguenza non si è liberi di interromperla, ma esistono anche 10 milioni di atei e agnostici e milioni di persone che professano religioni diverse in Italia, quindi chi è fedele agli insegnamenti della Chiesa li segua, ma non può pretendere di invadere la legge civile. E tra l'altro Veronesi conclude questa intervista con non un appello, ma una immagine molto molto forte, nuda e cruda, alla domanda, qualsiasi sia il termine, cosa direbbe agli italiani che non hanno più voglia di vivere? Sentite la risposta di Veronesi: di procurarsi una corda o aprire una finestra. Non c'è altra soluzione legittima o accettabile. È assurdo, perché uccidersi non è reato, anche il tentato suicidio non è punibile, e allora perché è reato aiutare qualcuno se questa persona ha scritto chiaramente qual è la sua volontà? Ecco, questo Umberto Veronesi sulla Stampa. Beh, il dibattito è molto molto sentito. Mi ha colpito anche questa notizia abbastanza incredibile che ho trovato sui giornali. Un giornalista di 79 anni è finito in carcere per diffamazione, ha accumulato una serie di condanne, si è dimenticato, ha detto il giudice, di presentare l'istanza per le concessioni delle misure alternative alla detenzione nei termini prescritti. E allora Francesco Gangemi, 79 anni, il figlio dice malato, deve scontare 2 anni di reclusione. Ieri è stato prelevato dalla squadra mobile Reggio Calabria ed è stato portato in carcere. La Federazione della Stampa, il sindacato, dice allucinante, una storia incredibile. Nonostante gli anni, leggo dall'articolo del Corriere della Sera di Carlo Macria, pagina 21, nonostante le gravi patologie, Francesco Gangemi, pubblicista, direttore del mensile Il Dibattito, è finito in carcere per diffamazione a mezzo stampa e deve scontare 2 anni. Provvedimento firmato dal procuratore generale di Catania, Elvira Tafuri. In passato Gangemi era stato condannato 8 volte, sempre per diffamazione, da tribunali calabrese e siciliani. Aveva collezionato condanne per 6 anni di reclusione complessive, scese a 2 grazie all'indulto. Nel carnet giudiziario di Gangemi c'è anche una condanna per falsa testimonianza diventata definitiva a novembre del 2012. Reato commesso nella veste di consigliere comunale di Reggio Calabria. Tra l'altro era stato anche sindaco di Reggio Calabria per qualche settimana nel 92, durante il periodo di Tangentopoli, che portò in carcere il sindaco dell'epoca Gatino Licandro. E allora, insomma, questa è la vicenda. In carcere, 79 anni. Anche il giornale, che ha fatto una battaglia per Sallusti, poi per il direttore di Panorama Giorgio Mulè, E poi per Lino Iannuzzi, carcere per diffamazione a un giornalista di 79 anni, dovrà scontare 2 anni di reclusione per le 8 condanne subite. È stato arrestato ieri dalla squadra mobile. Andiamo in pubblicità, poi ci tuffiamo allora nello straordinario mondo delle paginate di giornali sulla politica italiana. E allora, siete pronti? Ecco la carrellata di paginate, chi ne dedica 8, chi fino a 10, tutte le aperture sul dibattito politico dopo che ieri Enrico Letta, intervistato da Maria Latella su Sky, ha detto si è chiuso il ventennio, si è chiuso un ventennio, il ventennio berlusconiano. Subito Alfano ha preso carta e penna e ha vergato un comunicato molto duro, come dire, si occupi delle cose sue, del suo partito. E via, è partito il dibattito e questo ha dato la stura ai giornali di fare aperture, paginate, retroscena. Per esempio, per il Corriere della Sera, il Cavaliere ora, Berlusconi ferma tutti, ritroviamo l'intesa, il leader è Angelino, c'è tutto il dibattito all'interno del Popolo della Libertà, fare un congresso oppure no, Berlusconi ora è quello che frena, appunto dicendo non dobbiamo dividerci, tanto che il Corriere della Sera approfondisce un'intera pagina 5. PDL, tanti no all'ipotesi del congresso, ieri c'è stata l'intervista di Fitto, che si è scoperto e ha scoperto le carte dicendo sono lealista, tra i lealisti, e quindi con Berlusconi. E allora eccolo a tutta l'infografica della galassia, ci sono i governisti, Alfano, Lupi, Quagliariello, Lorenzin, De Girolamo, Cicchitto, Schifani, i mediatori, Gasparri, Bonavabè, insomma. Poi i lealisti, Fitto è il primo, ma con lui c'è Carfagna, Gelmini, Nitto Palma, Bergamini, Bernini, Bondi, Polverini. La Polverini fa oggi un'intervista al Messaggero molto dura a dire io sto assolutamente nella linea di Fitto e se Alfano prevale con la sua linea noi ce ne andremo. C'è la Gelmini che viene intervistata a pagina 5, democrazia nel partito, attenti a derive neocentriste, siamo sul Corriere della Sera. Il quotidiano Repubblica invece fa i suoi retroscena come questo a pagina 3 di Francesco Bei, SMS dopo la lite. Gli SMS se li sarebbero scambiati Alfano e Letta, cioè litigare in pubblico ma sorreggersi a vicenda in privato. Questa è la linea del governo Letta Alfano. Come si diceva, la democrazia cristiana per l'appunto. SMS dopo la lite, il sentiero è stretto, Enrico chiede fuori gioco i falchi. Francesco Bei, pagina 3 di Repubblica, menarsi in pubblico ma tenersi mano nella mano in privato. Il patto tra i due quarantenni che guidano la maggioranza non prevede alternative e si basa su un comandamento incrollabile, il governo deve andare avanti. Anche ieri, benché il segretario PDL non abbia certo giovato quelle parole così aspre sulla fine del ventennio berlusconiano, il canale con Enrico è rimasto aperto con uno scambio di SMS che ha chiuso l'incidente senza conseguenze. Insomma, Angelino dice e capisce Letta che attacca perché devi difenderti da Renzi al tuo congresso e Letta capisce in realtà che Alfano è l'unico modo per continuare ad andare avanti nel governo, cioè la forza di Alfano. Ed ecco che infatti anche il giornale, pagina 3, la strategia di Berlusconi, non dividiamoci adesso. Berlusconi frena gli anti-Alfano, anche su Repubblica viene dedicata un'intera pagina a pagina 6, così la Stampa, pagina 3, tra il premier e il vice è un gioco delle parti. Fabio Martini inizia l'articolo anche in prima pagina. Oh, l'unica che è rimasta fregata è Micaela Biancofiore. Sottosegretario, è l'unica per la quale Enrico Letta ha accettato le dimissioni. Effettivamente il caso è un po' strano. L'ira della Biancofiore, unica silurata da Letta, titola al giornale, tutti vanno un po' a cercarla, a intervistarla. Fabrizio Roncone ne fa un profilo a pagina 2, la dimissionata, pago per Silvio, ma lui che pensa? Micaela Biancofiore da Bolzano, 42 anni su tacco 12 d'ordinanza. Il tacco 14 arriva regolarmente solo ed è destinato alla Sant'Anché. Non sono riuscita a parlare con Berlusconi, l'ho chiamato ma era occupato, poi lui mi ha richiamato ma io avevo il cellulare spento. E cosa dirà a Berlusconi? Chiede Roncone. Gli chiederò di capire. cioè di capire com'è andata questa vicenda. Letta è stato chiaro, dice Roncone la Biancofiore, lei non ha ritirato le dimissioni e lui le ha accettate. No, guardi, Letta forse pensa che io sia una deficiente. Ma no, no, no, no, lui deve esserne convinto. Perché se no, scusi, che razza di balla racconta? Tutti i ministri e i sottosegretari, come hanno scritto i giornali, le dimissioni non hanno dovuto ritirarle per la semplice ragione che lui, Letta, non le aveva mai neppure volute vedere. Punto. Di cosa parliamo? Piuttosto, è arrivata qualche dichiarazione di Alfano su di me? Cioè la Biancofiore chiede lei all'intervistatore del Corriere. No, niente, zero, risponde il Corriere. Ah, sospiro lungo della Biancofiore, ma non teatrale. Il silenzio di Alfano conferma la mia tesi. Quella di Letta non è formalità burocratica pelosa, è puro mobbing politico condiviso con il segretario del PDL. Ecco, se vi aggrada il teatrino della politica, eccolo qua, la Biancofiore che dice è mobbing politico nei miei confronti. Anche Sonia Oranges titola così sul Messaggero, la Biancofiore tuonò, così è mobbing. Intanto, se volete sapere gli ultimi sondaggi, Ilvo Diamanti su Repubblica, il sondaggio Demos della settimana ogni lunedì, dà in questo momento il PD che cresce al 32,2% e invece il PDL in crollo al 20%, addirittura sotto il Movimento 5 Stelle che nel sondaggio di Ivo Diamanti è al 20,9%, poi ci sono Scelta Civica al 4,1%, SEL al 3,8%, UDC al 3,3%, ma PD in volo al 32%, PDL giù al 20%, l'effetto fiducia rompe l'equilibrio e il Movimento 5 Stelle diventa il secondo partito, questo è per il sondaggio di Demos di Ivo Diamanti in prima pagina di Repubblica. Insomma, come vedete, tante pagine sul nulla, sul dibattito politico. Poi le cose importanti, per esempio il fatto che Enrico Letta, presidente del Consiglio, abbia detto che sia possibile un una tantum di 120 euro in busta paga fino a un massimo di 250 euro. Ieri, sempre nell'intervista su Sky, come racconta Michele Di Branco a pagina 6 del Messaggero, beh, che dite, questa è una cosa un po' più concreta che riguarda tutte le famiglie italiane. Oppure, come scrive oggi il Sole 24 Ore, il fatto che ci sia un nuovo commissario per la spending review e ci sia questa cifra che Gianni Trovati racconta a pagina 5, vale a dire 295,1 miliardi di euro di spesa pubblica che l'ex commissario, il precedente ministro Giarda aveva definito aggredibile. 295,1 miliardi euro di spesa pubblica aggredibile, questo per il nuovo commissario Carlo Cottarelli. E aggrediamola, cosa aspettiamo? Forza, aggredire, questo dovrebbe essere il mantra. A proposito di Sole 24 Ore, non so se aggredire, anche Mauro Meazza, che saluto, buongiorno Mauro e ben ritrovato in questo lunedì uggioso e bigio a Milano. Che vuoi, dici, si aggredisce? Se sono aggredibile, un quanto di aggredibile poi risparmiabile. No, se si può aggredire, perché leggiamo sempre, è aggredibile, aggrediamola, forza, tutti con il commissario per la spending review. Sì, vabbè. È chiaro che aggredibile non sta, come poi spiega Gianni, appunto, Gianni Trovati, non è aggredibile, non sta per immediatamente risparmiabile, no, certo, insomma, non sono soldi in cassa. Però sui quali studiare, sui quali... Però no. Si può studiare molto bene. Ecco. Ti do un altro paio di cose su cui studiare che abbiamo sul Sole 24 Ore di oggi. Una è la pensione, tu sei giovane, beato te, non hai di questi pensieri, però oggi abbiamo una bella guida di 4 pagine, molto completa, sulle le nuove pensioni, perché andiamo praticamente a regime con la riforma cosiddetta Fornero, quella varata da Monti, ti ricordi, ai tempi dello spread impazzito del Salva Italia, ecco quella lì, tutte le regole rispiegate in 4 pagine, molto ricche di particolari. E poi invece ti do una buona notizia, almeno una piccola buona notizia, sai che migliora il tasso di occupazione femminile, in questo mondo di disoccupazione, in questi dati di disoccupazione tutti drammaticamente negativi, migliora un pochino, lo racconta Francesca Barbieri sul Sole di oggi, le donne sono un po' più adattabili, un po' più flessibili, accettano anche orari disagiati, questo è un po' il segreto di questo miglioramento. Pochi punti percentuali, per carità, ma di questi tempi non si butta nulla, no? No, no, ma assolutamente. Assolutamente. E allora, Mauro, che dirti? Beh, almeno ci hai dato una parziale buona notizia questa, perché a vedere i giornali è un po' una pletora di notizie. Guarda, ti voglio dare una notizia molto, molto operativa. Tu non so se conosci L'Esperto Risponde, è una rubrica che ha 30 anni di storia praticamente, 29 anni, ne fa 30 l'anno prossimo, dove i nostri lettori ci mandano quesiti. Da oggi c'è un portale tutto nuovo e una veste grafica anche nuova, trovate tutte le spiegazioni ovviamente su Sole 24 Ore in edicola, e poi potete fare ricerche mirate nella nostra banca dati, il sole24.com/o/, come dicono quelli bravi, Esperto Risponde. Slash va benissimo, dai. Per noi, scusami, è un momento importante, siamo molto affezionati a questa rubrica, sappiamo che anche i lettori sono molto affezionati. Ma certamente. Allora, grazie Mauro Meazza, ti ritroviamo ovviamente domani, qui invece nella lettura dei giornali, a parte di Spendi Review e di Spesa Aggredibile. E invece qui di aggredibile c'è poco, se non credo le tasche dei cittadini, anche se giurano di no, al comune di Roma e al comune di Milano, le due città più importanti d'Italia, senza far torto alle altre ovviamente. Pagina 9 del Corriere della Sera mette a fianco le due situazioni dei conti pubblici dei due municipi, Campidoglio e Palazzo Marino fuori controllo. Questo è il titolo a dir poco inquietante. I debiti al commissario e poi tagli e dismissioni a Roma, dove far quadrare i conti del comune senza alzare le tasse e senza chiedere soldi allo Stato. Questa è la cordicella da equilibrista sulla quale si muove in questi giorni il sindaco Ignazio Marino da quando si è insediato. E dopo più di 100 giorni si è dedicato anima e corpo alla vera emergenza del comune di Roma, cioè la bellezza di 867 milioni per far quadrare i conti da trovare da qui a fine novembre. Allora, la promessa, cari cittadini, anche di Roma, è di non alzare le tasse, e cioè di fare in modo appunto di trovare dei soldi, per esempio scaricando i pagamenti dei mutui, i contratti per finanziare la metro C per 400-450 milioni, altri 100-140 milioni potrebbero arrivare dallo sblocco sui fondi del trasporto pubblico locale, soldi che ora passano per la regione Lazio. In questo modo si arriverebbe a 600 milioni, ne mancherebbero altri 260. L'assessore al bilancio Morganti aveva proposto simulazioni con l'aumento dell'IMU. Simulazioni con l'aumento dell'IMU. Ma come? Avevano detto 5 righe sopra che non c'era l'aumento delle tasse. E un incremento dell'addizionale IRPEF da 0,9 a 1,2. Misure però bocciate da Marino. Bocciate. Non sarò il sindaco delle tasse, piuttosto me ne vado. Però il dato di fatto, come racconta Ernesto Menicuccia, pagina 9 del Corriere, è che questi soldi vanno trovati. Se non si trovano aumentando le tasse, che si fa? È uguale, racconta Maurizio Giannattasio, i 500 milioni di buco sul comune di Milano, per la verità 489 milioni e 500 mila euro, l'entità del disavanzo del comune di Milano a fronte di un bilancio di 2,5 miliardi. Molto molto bene il traffico. Vabbè, avrei voluto leggere tante altre cose, ma il tempo corre, si sa, è così. Allora, di Lampedusa, per esempio, racconta Attilio Bolzoni in prima pagina di Repubblica, l'ultima scena di Lampedusa sul molo quando scaricano i primi 16 cadaveri, tutti e 16 nella stessa posizione, le braccia rigide, i gomiti attaccati al petto, le mani aperte come se volessero afferrare qualcosa, sono morti così come muoiono gli annegati. È l'inizio del racconto del mare che restituisce altre vittime, come è il titolo dell'articolo di Bolzoni, e con i sub che ora sono chiamati al lavoro anche più delicato, più terribile, quello di andare a recuperare sotto il barcone naufragato i morti. C'è il dibattito, come avete sentito il ministro Cécile Kyenge parlare del abolire, rivedere subito la Bossi Fini, c'è anche questa frase molto dura che è finita sul giornale del sindaco sindaco di Lampedusa Giusi Nicolini, che a un certo punto sbotta: la Lega va spazzata via. Salvini non sa di cosa parla. Lui, quelli della Lega, liberi di parlare, di bestemmiare contro la dignità umana senza essere mai perseguiti per diffamazione o smentiti e mascherati per anni. La Lega va spazzata via. Così Giusi Nicolini, sindaco di Lampedusa. Sul tema anche la prima pagina di Giuliano Ferrara e del Foglio, l'editoriale di Giuliano Ferrara, che dice: non si ha il coraggio di dire questo, tutto nasce per colpa delle Valtur schiavistiche della morte per acque, organizzano con la complicità corrotta dei loro governi e dei loro stati incarogniti il traffico illegale. I camion percorrono le piste del deserto, mettono sulle imbarcazioni low cost che portano la merce illegale d'Italia. La colpa non è nostra, è loro, non dei disperati di là, ma di chi li imbarca in quelle condizioni. La seconda cosa che non abbiamo il coraggio di dirci, scrive Ferrara, è questa: bisogna aprire le frontiere, organizzare un ponte aereo marittimo se si vogliono evitare gli annegamenti e la morte per acqua di uomini, donne, vecchi e bambini, oppure chiuderle ed estenderle fin dentro nei paesi da cui partono i barconi, realizzando con una politica di diplomazia e forza militare le condizioni per cui nessuno parta più da quelle coste. Questo, secondo Ferrara, è ciò che va fatto. Va bene, devo dire il titolo della Gazzetta, che noia, mamma mia, la signora alza la voce, vabbè. Ecco, questo era il rumore della Gazzetta, che è improvvisamente, per sbaglio, caduta, schiantandosi a rapidità contro il vetro. E allora siamo al momento finale, quello della chiusura del premio La Carta Costa, l'articolo più inutile scovato sui giornali. Mamma mia, oggi siamo sul Corriere della Sera, dove in un'intera pagina, pagina 17... c'è tutta la storia di Harry, il principino che si sposa. Harry, ti presento Cressy, la snob che non piace a Kate, il principe pronto alle nozze con una modella di 24 anni che, se la vedeste in foto, direste: che modella, però. Chi è questa? Cressy da Bonas, Cressy, 24 anni, un'intera pagina di Maria Serena Natale del Corriere della Sera, e non è abbastanza, perché è finito l'articolo, sotto in un box c'è anche "e Pippa va a caccia di fagiani", con tanto di foto. Non ho neanche capito se si tratti di un doppio senso o no, e non voglio saperlo, perché chi se ne fotte della fidanzata del principino Harry? Cressy, 24 anni, modella, ma dai, una pagina intera al Corriere, non l'hanno proprio capito. La Carta Costa, il giornale radio.